e poi è calato di colpo. S5 di colpo, no, adesso si è risceso, non sei 5 come prima, però diciamo che almeno ti sento. Dicevo, ma l'FM non ce l'hai? E che cosa vecchia, cioè che cosa primitiva. Erano meglio quelli che avevano l'antenna telescopica, te la ricordi? Quella tirava su un metro almeno, altro che gommino. Così in basso, buonasera, perché siamo così in basso già. Ah ok, là. Sentiamo U2, Radio 2, là. Ciao a tutti, buonasera, non so chi ci sia, sono appena entrato. Ciao Luca, c'è Marco in ascolto, sono io e c'è Gianni ovviamente. È positivo, là. No, perché sono entrato, lo sentivo a Gianni in basso. Ciao Marco. Io sto cucinando, sono in ascolto, con X solo, ciao, a dopo, ciao. Sì, in giro, sì. Ok, perché sei 5-3. Va bene, dai. Io sono entrato giusto per avvisarti che stavo scendendo basso, ma mi stai dicendo che sei col portatile. Mi sento anche io, sono appena rientrato. A frappè. Ok Gianni, va bene. A dopo. Eccomi rientrato alla base, ci sei già fra? Sì, adesso sì. Ciao, vabbè, batterie scariche, insomma, quando vai a modulare mi lampeggia il LED delle batterie, vabbè, l'apparato lo conosci sicuramente. Sì, sicuramente, te l'ho detto che erano le batterie, sono dei vampiri quegli affari, durano poco e c'era qualcuno che fischiava basso, magari c'è un altro portatile, c'è qualcuno che chiama su 10? No, non so se stia parlando, se sentiamo una vocina prima, però è mezzo a fuori bene. Sì, poco fa sul tetto ho provato a spostarmi per vedere se cambiava qualcosa, in effetti mi sono messo al centro tetto ed è stato l'istante in cui mi ha detto che ti stava arrivando quasi 5, dai. Sì, con quei portatili ho fatto vari esperimenti e ho notato che l'antenna, avendo una bobina molto fina e comunque avvicinandola al corpo, le stazionarie saliva da 3 a 5, a 7, a 3 di nuovo, quindi è anche quello, capito, proprio il tipo d'antenna che purtroppo su questa frequenza non ci sta niente, non ci sta a fare niente, perché è troppo caricata, in pratica sono praticamente 2,5 metri, 2 metri all'incirca per accorciarla, quindi figurati io della bobina lenta. Sì, infatti si vedono le venature attraverso la gomma della carica qua dell'antenna. No, vabbè, l'ho messo l'altro giorno sul mobile, ho provato ad accenderlo, visto che ci avevo messo le batterie, neanche me le ricordavo. E niente, quindi ho fatto giusto un test per vedere se la radio andava. Sì, dovrebbe esserci la stilo con l'attacco BNC che potrebbe essere compatibile con questa radio. Sì, quella che c'aveva una, mi ricordo che c'era una carica metà antenna. Non è come i cosi, come si chiamava quella marca? C'era quello bellissimo, ce l'avevo, era un mattone, proprio un vero laterizio. E l'ho portato all'imbara, ho esteso questa antenna che era un metro, quasi un metro e mezzo. Ed era un 23 canali, la Fayette, credo fosse 23 canali. Ed era quello, c'era la manopola proprio sul davanti, grande, con il canale, c'era il mister. Un apparato meraviglioso e dall'imbara arrivavo a casa tranquillamente, però cavolo, c'è un'antenna lì. Eia. Sì, vabbè, poco fa, non so se mi è copiato, ti stavo parlando di un vecchio Inuit, sei canali dato per 5 watt, fai 4, anche quello un laterizio che aveva praticamente davanti a metà sulla facciata, aveva praticamente altoparlante, microfono e aveva un piccolo smitterino e poi sopra aveva il controllo del commutatore dei canali, il volume e lo squelch, e quello aveva una bella antenna stilo molto grossa e abbastanza lunga, intorno al 1,70 m, dai. Giù di lì, infatti, era l'unico modo per avere qualcosa di stabile e di accordato. E purtroppo c'ha ragione Marco. Oramai, a parte che siamo in pochi, il futuro dovrebbe essere passare ad altri sistemi, sempre sulla stessa frequenza, però magari ampliarla con dei sistemi che rendano un po' di più senza l'AM è proprio abbandonata, perché è un pianto, già rispetto all'FM sono dei colpi, va molto bene in SSB, devo dire. L'unica è passare a qualche forma di digitale semplice, perché il rendimento, anche se c'è QRM basso, è tutto un altro pianeta, e io l'ho provato, e dal giorno alla notte proprio rinascerebbe, sarebbe quasi un mezzo cellulare. Ma anche con potenze, anche con potenze, come si dice, bassissime? Diciamo il rapporto segnale rimane quello, cambia il rapporto rispetto al rumore di fondo, tutto lì. Tieni presente che il digitale è spesso quello più semplice, più penetrante, c'ha una penetrazione uguale a quello di un CV. Se tu vai con le stesse condizioni a trasmettere in CV con quel portatile, anche se sei S1, sicuramente la comprensibilità dei vari toni è molto superiore a quella che può essere la voce. E così il digitale. Certo, ho capito. Diciamo che praticamente cambia solamente il termine sulla punta della lingua. Il supporto rimane quello, cambia praticamente il contenuto della modulazione, dai. Esatto, più o meno così. Riuscirebbe, diciamo, a salvarlo, a fare qualcosa. Ecco, io sento già che è usato nei canali un po' alti, trasmettono anche foto, trasmettono tante cose. Sui 22, su canale 22 spiccioli c'è un network europeo, diciamo, del nord Europa, l'avrei sentito molte volte che è in packet, e tra l'altro è anche 1200, quindi una velocità comunque decente, ecco. Tecnicamente, dunque, per trasmettere la voce, adesso non me lo ricordo quanto occorreva, ma penso che già 1200 puoi andare tranquillo, che non so se siano 300 come velocità o giù di lì per passare la voce. Ma ci sono, io ho assistito anche delle prove con apparati militari che hanno fatto vedere in HF, però molto più in basso, da 27 le prove. E ti devo dire, loro possono regolare anche la velocità, ma non puoi neanche avere un paragone, ecco, cioè l'AM è come se non esistesse in confronto. L'AM non sentivi niente, commutavi e arrivava la voce, magari un pochino spezzettata ogni tanto, però chiarissima. Certo, vabbè. Certe tecnologie vanno prima a disposizione di certi apparati. Senti un po', come segnale, col fisso come sta andando? Allora, vediamo un po', mi metto più chiari, perché anch'io non è che stia brillando in quest'ultimo periodo. Viene avanti che è grande, aspetta che ingrandisco lo schermo, ecco, prova. 1, 2, 3, 27075, 8 watt circa in antenna, e niente, tutto qua. 9,18. Bene, Meda, considerando che c'ho un montiero davanti, vabbè, va benissimo, ce n'è aiosa, dai. Marco è sparito, eh? È in cucina, che sta cucinando il porcetto, il primo, il secondo, il terzo. Eh sì, è l'ora di pranzo per lui. Senti, e la modulazione com'è? L'ho amplificata, ma per essere peggio è meglio che sia così, ecco. Tutto lì. Anche a me le modulazioni troppo forti mi danno fastidio, perché grazie a Dio, nonostante l'età, non sono affatto sordo, anzi, forse sento anche troppo, mentre certi, per certi sarebbe basta addirittura. A me addirittura non mi sentono alcuni, figurati. Ma dici che è troppo alta? No, no, no, per la CB va bene, guarda, per le orecchie dei CB va benissimo, riesci a tapparle. Va bene comunque, no, non toccare niente. Guarda, adesso ho messo il guadagno della radio a metà. Sì, lascialo così, se va bene va bene, non toccare. Lasciala così. Tanto non è ben insignificante anche dal punto di vista tecnico. Oramai tutti la chiamano antica modulazione, quindi stare lì a toccare, eccetera. Infatti anche Marco l'ha buttato via il trasmissificato perché ne mercava, perché essendo proprio il tipo anche riportante genera rumori dopo tanto, dopo che si spara il 100%, va tutto galoppando. Forse perché lo sto tenendo anche un po' vicino alla bocca, dai. C'è un bimbombango, vediamo un po'. Se non scoppia, avanti. Buongiorno. Buongiorno, ben ascoltato, cioè buonasera e ben ascoltato, oramai è sera. E qua sei 9 spiccioli, un po' oscillante, evidentemente si sta levando un po' di vento. Ti passo Gianni. Vediamo un po', poi ricambiaci il controllo che anche noi stiamo facendo prove. Riprendi Gianni. Ehi, ma che sei, Manuel, avanti. Qua la radio è... il segnale oscillante 3, 4, 3, sicuramente si è in barra mobile e la radio è quello che è, dai, radio 3, dai. Stazione ferroviaria. 7,5 qua, 7,5, non mi copia. È oscillante, 7,5. Riprendete che sono in cucina. Penso che ti sei avvicinato qua a zona 127 bis, sei intorno ai 9,20 quasi. Ok, dai, sto buttando la faccia. E adesso sei migliorato qua da me, eh? Santiago 7 a bicchieri 8. Sto andando con un watt. Quindi se mi senti a Platamona, guarda, è un miracolo. Presumo che sei sulla camionale all'ingresso di Sassa, guarda. Quindi c'è poco da fare bisogni, riprendi già. Vabbè, ci siamo sovramodulati per un attimo. Per Manuele ti stavo dicendo, qua sei variabile da 7 a 8. Ehi, già, qui un po' anche tu, comunque, anche allo 9, radio 5, anche alla regione, diciamo che va ventina, radio 5. Bene, Meda, mi sembra che hai sentito bussare Antonio, avanti. Eppure non stavo sognando, mi è sembrato di sentire Antonio Bombolo. Io neanche l'ho sentito. Ma ero sembrato un 30, ero, buonasera. Allora c'è C. Sì, ma lui mi sentiva di splatter, capito? Mi sentiva di golpe. Caffa. Buonasera, chi è che state dentro la Platamona? Io, Pupurì, io la Platamona, la ti ascolto, me la Santiago di 3, una radio di 3, più Pio, cosa stai usando? E vai, finita. Cazzo, ma sta fine, allora ti dico 9,30. Scappa, se sei 9,20 oggi, non può essere. Perché c'ho la tenda buona io. No, mi di, chi sei? Cinco, che sei bocco. Vedi, bella, a tu, sei scendi, Pio, Pio. Vabbè, vai, vai, ciao, ciao. Cazzo, non ci credo, giù di, a dove arrivi, bacio? Poi, c'è ancora che le ho poste qua, Scusa, ti prendo io perché mi hanno chiamato. C'è Antonio, ben entrato. Riprendo più tardi. Comunque Antonio qua va benissimo, sei 9.30 quasi. Quasi più forte di Marco. Ci sentiamo a dopo, riprendete. Ok Gianfra, va bene, dai, a più tardi. Avanti la barra mobile con Torino e Emanuele. Arrivi sempre a bomba qua. A che altezza siete adesso? Adesso dovremmo essere più o meno Turco Reale. Bene, bene, sì, poco fa eravate appena appena in un fosso e quindi il segnale era un po' più basso. Adesso vi dicevo molto molto forte, dai. Meglio così, comunque non ci credi Arturio, ma arriva basso qua. Tonino, Tonino, mi copi, 10 watt, Marco, da questa parte. Ciao, no, sto guardando lo switch perché sto guidando. Comunque, sta arrivando abbastanza ottimo, 5 perfetto. Io? La radio sì, 5. Vediamo dopo sale perché dopo 9:20 mi stanno confermando. Marco! Sei calato di segnale, a tronco quando hai detto tronco orale eri 9, adesso sei calato, sei oscillante. Adesso salgo di nuovo, dai, è un po' sincera. Comunque senz'altro è giunto una portata, le vado forte. No, no, solo 10 watt, 10 watt, niente lineare, 10 watt reali però. Queste zone, oh, Antonio ci vuole credere, via più più arriva, forse è negativo questa zona. Tanto c'è la zona d'ombra lì, non può capitare, mi anche io ci sono certi punti che proprio non arrivo, non arrivo, non sono i misteri delle lettere. Vai Gianni, vai Anto, cioè Anto. Antonio mi sta splatterando, è sul 30. Vedi, se ne è scappato, quando dici la verità se ne scappa, cara. Vabbè, però Antonio si offende, cioè non è che glielo dici apposta, la prende sul personale quando gli dicono che arriva basso in un punto, boh, vabbè. Dai, sono in cucina, ciao a tutti, ciao. Ciao, ciao Marco, lì. Avanti, ciao. Eia, no, sto dicendo che Antonio è passato sul 30 e mi sta splatterando, vabbè, siamo attaccati. Purtroppo lui vuole arrivare sempre alle 9:30 perché ha preso un casino in giunti per un apparato che non vale niente, boh. Non vorrei assolutamente che ha fuggito. Gianni, come mi ascolti adesso? Oltre 9. Un cc oltre 9, dai. Già va bene, dai. Va bene, dai. Tu che maleducato, che sei andato via sul 30 senza salutare niente. Vabbè, magari non ha... vi sentiva bassi e non avrà capito chi eravate, dai. C'è qualcuno qua su 10? Ciao Roberto, buonasera. Buonasera a lei, ciao Gianni, c'è qualcuno altro? Sì, c'è Tonino Kawasaki in barra mobile con Manuele, credo. Avanti Tonino. Cappa, adesso meglio mi senti? Tu salutone chi è entrato. Eia, adesso sento, ti sento ancora meglio. Avanti Roberto, per Tonino. Ciao Tony, 9:15 dalla mia parte radio 5. Cappa, ciao Roberto, mi hai sentito? Sono in BM, non posso guardare lo svita perché sto guidando, dai. Che zona sei? Adesso sono zona dei punti. Stai arrivando alla grande, benissimo. Ti stai aiutando, pulito sì. No, no, sono liscio liscio. Stai andando alla grande, 9:15 sei qua. Ho una bella antenna magnetica, bella caricata. Torta ma caspita, è una bomba. Quasi 9:20 arrivi con i picchi. Cappa, dai, già sta andando bene, dai. Poi c'è qualcun altro, Gianni? C'è Marco che si è spostato in cucina. C'era anche Gianfranco che si è spostato per sbrigare altro, boh, non so se rientrano. Niente, tutto qua. Ha fatto un blitz Antonio, ma credo che sia spostato sul 30 perché mi sta splatterando qua sul 10. Anche io sento qualcosa qua, e ogni tanto qualche picco di coso di splatter, ma basso basso. Roberto, dimmi tutto. Antonio si è offeso, si è scappato via da questo canale perché ha detto veramente ero zona trucco reale, sentivo pio pio. E si è offeso e si è andato via, dice ma vai, ma se non ci credere. E se dici la verità e non ci credi, allora a me 9:30, ok. Ah va bene. A me mi ascolti comunque, dai, io sono il più piccolino di tutti. Ormai esci fuori, lo so, dall'autoparlante e sei vicino a me. Ah vabbè, dai. Cerchiamo di andare d'accordo, dai. Siamo quattro gatti, cerchiamo di essere amichevoli, dai. Non ho mai detto, se uno arriva a pio pio arriva a pio pio, se uno arriva a bomba dico arriva a bomba, se uno arriva perfetto arriva perfetto, a me non mi importa niente quello, ho capito, quindi se non ci puoi io contro lui non gliela darò più, tanto non mi crede. Va bene, dai. Ok, chi è che ha chiamato? Avanti. Questo Tonino, boh. Ciao Luca. Ciao Luca. Ciao Roberto, ciao Tori. Vabbè Tori, non te lo dico il telefono dopo l'avrai messo, guarda. No, non ho capito, il telefono dove l'hai messo? Nel buco il telefono. Ma veramente dove ero io non avevo neanche segnale, ero fuori Sassari. Perché ti ho risposto che erano le 3, sì, cavi. Veramente non prendeva segnale neanche di Manuele, messo a po'. Neanche il telefono suo prendeva. io ho mandato alcuni messaggi anche a persone molto conosciute, non partivano. Giacomo, prendo un attimino sul lacro. E ancora non ti è arrivato? No, arrivato, già ti è arrivato. Sei tu che non hai appeso. Ma veramente io sto guidando, come faccio a guardare il telefono? Io quando guido e basta, anche troppo, perché il microfono lo sta mantenendo Manuele, penso un po'. Aia, no, che Roberto, tu vedi, Roberto, che qua microfoni, io lo figlio, Cosa è successo? Ma è un microfono mio, non è un gelato, non preoccuparti. Ok, Emanuele, ma rinfioso. Cosa hai detto, Luca? No, qua stanno parlando di microfoni, lo tengo in mano, qui, là, Devi stare attenti a cosa abbiamo in mano. Sì, noi sono sempre un pari, Roberto. Devi stare attenti. Ci sono anche le donzelle. Non siamo solo noi due, ci sono anche donzelle. Ma dalla voce non mi pareva una donzella, però. Vabbè, tu non vedi niente, ma ce lo vediamo noi però, dai. Andiamo. Aspetta un attimino, 5 minuti e rientro subito. Sì. Andiamo, gata, vabbè. Marrano. Vabbè, rientrato, sì. Dove avete trovato, Manuele. Vabbè, tutti spariti sul 10? Tutti morti. Tutti spariti, boh. Tonino, Roberto. Chi sei, Luca? Roberto si è sentato, vabbè, Emanuele con Tonino sono con le donzelle, ha detto. Ok. C'era Marco, stava cucinando. Oh, yeah. Marco, metti un piatto anche per me che sta arrivando, dai, no, sto scherzando. Non sempre mai niente, Guido. Luca, come mi ricevi? Adesso vabbè, non ti ho mai chiesto un controllo, adesso non so esattamente dove ti trovi. 9.25, la dolce. Kappa, ok. E anche tu come segnale non scherzi, dai. Piccoli neri siamo. Sei sul più del 30, dai. Chiara. Sì. E qua c'è il braccio di tassazione. Oia. Roberto, a rapporto, ci sei? Oh, Gianni Dubroffe, ma quell'antenna che quel video mi hai mandato di quell'antenna, quanto costa? Ciao Lu. Allora, quella roba lì me l'ha girata Marco Condor. Praticamente il fondatore di quella ditta è il fratello di colui che ha fondato l'Assirio, dai, uno dei due fratelli. Praticamente questo costruisce antenne artigianali. E Marco mi ha girato il video di questa nuova antenna e poi mi ha inviato il PDF con le caratteristiche e le istruzioni per l'installazione. E il prezzo? E il prezzo ancora non lo so. Neanche Francesco, quello del video, come si chiama, Radio Killer, dice che prossimamente farà l'installazione e forse comunicherà anche il prezzo, cosa ne so. Ok, la bella, comunque l'ho vista, bella massiccia, mi sa che me la compro, le leggo la matto, come metto quella. Come materiali, come fattura di materiale, componentistica, roba ottima, dai, si vede raccogliere dettagli e materiali, sembra una cosa fatta molto bene, quindi presumo che funzioni altrettanto, dai. Andava, grazie Gianni. Ehi, figurati, me l'ha girata Marco e l'ho girata anche agli altri, mi è venuto proprio automatico, non so se Luca conosce di chi sto parlando, aspetta se mi sfugge il nome, se mi carica WhatsApp sul computer, che normalmente è un nome del costruttore, credo che sia Grazioli, se non sbaglio. Luca, lo conosci? A me piace. Affermativo, Grazioli antenne.com. No, non lo conosco. Ciao Cla. Non lo conosco, no, ho visto, sì, Francesco mi ha mandato il video anche a me. Ci sentiamo una volta o due settimane con Francesco. E se così, bisogna vedere col tempo. Quello è che è l'alluminio di oggi. Ehi, ho sentito qualcun altro. Chi è avanti? Non conosco il video. sei Claudio dopo, da Papatango, giusto? Ok Gianni, Rubrofetta qua da questa parte, zona stazione ferroviaria Sassari. Avanti Claudio, buonasera. Ho copiato solo una parte del tuo passaggio perché c'è un CB qua attaccato a me che mi sta splatterando alla grande, quindi sono riuscito a cogliere solo la metà, dai. E niente, forse Luca voleva dire qualcosa riguardo, avanti Luca. No, dicevo a Claudio che si è trasferita la Sigma e questo è il figlio praticamente che sta prendendo in mano questa roba qua. Bisogna vedere sempre il materiale quanto dura. L'827 l'hanno già fatta fuori perché già Lucido la sta lavorando bene ed è uscita da poco. Adesso bisogna vedere questa. Vedrei che il prezzo sarà sui 140-160. Eccomi, sì, dai, più o meno adesso ho capito, poco caso non sono riuscito a seguire tutto il passaggio, dai. Bene Meda, non so se è rientrato Roberto avanti, ci sei? Sono rientrato adesso. Kappa, c'è Claudio da Papatango, da Porto Torres, non so se l'ascolti, sicuramente sì. Sì Claudio, ho sentito, tu mi ascolti Claudio? Anche qua ti ascolto bene, radio 5, segnale 9, quasi più 10. Ok, chi ci è arrivato qua, oltre a Gianni, c'è qualcun altro? Siamo io, tu, Luca e Claudio. Volevo chiedere a Claudio come arrivavo giù a Bussodorra. Radio e segnale, grazie. Perfetto, anche tu qua arrivi un po' consigliere un po' variabile. Qua nelle mie coordinate, dai, Santiago 7, la radio 4, dai, c'è un po' di un leggero QRM, però va bene, dai, ti ascolto bene. Dai anche a me un rapporto, dato che ci sei Claudio, e poi mi dici le tue condizioni di antenna. 9.78, radio 5. Che antenna stai utilizzando tu? Ok, stesse condizioni mie, anche io con Mantova. Ok, devo segnare un po' più alto, 9.5 tendente a 9.10, radio 5. Ok, avanti Luca a te. Roberto, voi siete scambiati la settimana scorsa, ti ricordi? Sì, ma infatti me l'ha detto, adesso mi ricordo, dai, sto dicendo per seguire. Sto smemorando. Ti arriva bene comunque. No, peggio. Sei andato in saturazione di brutto. Vabbè. Dimmi lui. Hai notato quando ho attaccato il compressore? L'ho sentito un po' saturo. Strano, Ma cos'è un 44 quello che sta utilizzando Claudio? Aspetta, avete parlato. No, non credo, non Robert, perché sennò non farebbe così. No, siccome un'altra radio anche. Non so se mi ha accoppiato, Claudio mi ha accoppiato, che radio è la tua? Sono una qua la tua, diciamo non è fortissima rispetto a quelli degli altri che ho più vicini, però è comprensibile la radio 5. Se fosse un po' più alta sarebbe anche meglio. No, allora che andando alla grande non c'è problema, ok. Oh signori, però io adesso vi devo lasciare, sono entrato un attimino a salutare perché poco fa mi sono spostato che mi hanno chiamato. Vi lascio proseguire il QSO, a voi se coincide magari ci sentiamo. Stasera non credo che sono invitato. Penso domani se non ci sono problemi ci sentiamo. Comunque vi risaluto tutti, Claudio, Luca, Gianni e eventuali qua amici sul canale 10. Ciao ciao a tutti e buon proseguo. Ciao. Ciao, vabbè, ciao, avanti già. Ehi, ya. Mi sono assentato un attimo, è arrivato un vocale di Marco, lo voglio ascoltare, quindi faccio un minuto di bianco e rientro tra poco, dai. Grazie per avermi sovramodulato. Buonasera a tutti. Ciao, già, ciao. Stavo rilanciando l'altro Gianni, capito? No, sono Gianni doppio rumi. Infatti io stavo rilanciando all'altro però. Ah, scusami, allora ho capito male io, dai. Ciao, io ho acceso adesso e non ho fatto ascolto, dai. Mea culpa, non so chi ci sia. Se vuoi farmi un riepilogo della gente che c'è. Allora, io, Gianni, vabbè, Roberto vi ha chiuso, Claudio va a Porto Torres, e buf. Tu Benito sì. Io? Benito. No, già, ma troppa insulina ti stai facendo. Ah, sì, vabbè, ho capito, sei Luca Flippa, dai. Ho capito da come parli, ma se no dalla modulazione non ti avrei capito. Ah, vabbè, forse perché da ieri ho messo un MB+4 e lo sto facendo andare. Che è troppo forte. Abbiamo fatto la regolazione ieri con Roberto. Per me è troppo forte perché io forse sono vicino e ti sento forte e a volte non capisco le parole. Addirittura. Guarda così, te l'ho messo a 4 il microfono. Così c'è un bombo. Dai, lo lascio così adesso. Gatta gatta. No, non stai uscendo, sei tutto tri tri tri tri tri tri. Cos'era questo rumore? Qualcuno sta provando forse. Cosa gli hai fatto a quelle MB+4? Le hai cambiato la capsi? No, sembra tutta originale, me l'hanno portato ieri. Sembra tutto originale, però dentro non l'ho aperto, ho solo messo la batteria siccome la devo restaurare. Poi lunedì al limite me lo... perché tutto messo male, l'hanno verniciato a bomboletta, tutta una bucaria, così che... La capsula però sembra l'originale, è stato tolto il classico piattello da dentro, non da me, e la capsula è così buttata dentro, però è molto messo male, non so se è stato modificato, lo ripeto, non l'ho ancora aperto già. E non è questione di capsula, lì hanno fatto qualche modifica perché c'è un bel forte, non è normale, fosse stato normale non sarebbe stato con questa radio. Guarda, ti mando la foto adesso, per farti capire un po' di vernice gliel'ho tolta io adesso così giocherellando. Te lo devi riverniciare qui. E allora io così lo lascio poi che feo. Aspetta, ti mando la foto. Via, ma non c'ho telefono, aspetta. Sì, ce l'ho. Avanti a chi tocca. Guardati la foto e dimmi. E dimmi se. Adesso che mi è incuriosito lo apro. Vediamo un po'. Un attimo, il brecco c'era, che sto smontando il microfono, e avanti, vabbè, ciao Clari, prossime, dai, ci aggiorniamo via WhatsApp, e, avanti il brecco, chi è? Benito, chi è? Sì, che ti sentiamo, però non ti sento, siamo io e Gianni, Gianni Lubrofetta, e c'era Claudio da Porto Torres, si è chiuso adesso, niente, avanti già, doppio ru. Sono rientrato io, eh. Ehi, c'è Benito, riprendete voi un attimo, sto smontando questo microfono. Ehi, doppio, ci sei? Sarà il telefono. Avanti Benito, non so se mi ascolti, Gianni da questa parte. Ciao Gianni, ciao Benito. Kappa, anch'io ti ascolto più pio in mezzo al QRM. Non so quali sono le tue coordinate, se me lo vuoi dire. Ah, ok Benito, forse siamo già sentiti precedentemente, dai. Sì, anch'io ti ascolto un po' così, dai. Mi hai detto che sei con l'antenino piccolo, avanti. via, bene bene, abbiamo sentito Gianni, avanti già, buonasera. Oh, Lubrofetta, ben sentito. Stai uscendo a tratti già, cosa sei, in barramobile già? No, sono a casa. L'ultimo passaggio che hai fatto, non questo, il precedente, sei uscito a tratti. E allora è perché ho premuto male la portante, perché questo microfono qua ti secca il dito, c'è la portante quadrata, invece che averla normale come gli altri microfoni c'è la quadrata, malgrado sia buono come microfono, però ha questo difetto, capito? Ok, un attimo di bianco, vado a cotiacca piccolino. Sì, abilito, fa qualcosa perché ti sento bassissimo oggi, ti ho sempre sentito bene, boh. Scappa, dammi un attimino, un secondo. Luca! Riprenditela! Io stavo avvitando di nuovo, ti ho mandato la foto, ma sembra tutto originale. L'hai visto già? No, sta andando adesso. Zitto! Se è tutto pronto, domani in piazza a Butto e fa bella giornata. Luca! È ponticellato, c'è quel ponticello giallo, non lo vedi? È che è ponticellato, non è originale, là, c'è la modifica. No, no, beh, quello lì è il figlio, aspetta. Senti, lo vedi che ponticello già? Quello lì è il filo di massa della che va dentro il cavo, non lo vedi? Quello che stai dicendo tu si fanno a destra, quelle modifiche, non ce ne modifica già. I fili che vedi sono i fili delle connessioni, boh. I fili il più o meno della batteria e gli altri sono quelli delle connessioni, basta. Quelle modifiche che stai dicendo tu si fanno a destra, sopra dove c'è scritto MB+4, che in questo caso non sono state fatte, sono due resistenze da togliere. È tutto originale, gatta. Io i cavi sinceramente non li ho attaccati. Qua sono bianchi, blu. Ah, sono originali del radio. Se vuoi un pezzo di striscia LED, te la do. Gliela fai in giro e così illumina tutto quanto di tutti e due gli strumenti, capito? Passi da sopra un strumento all'altro. Ti faccio la foto adesso. Ah, comunque sono a 12, tranquillo. Luca, è camuffato di sapponecchia, io non è lì, che non può uscire normale così forte. Già, magari hanno modificato dentro cambiando di qualche cosa. Io ti ripeto, ma chi viene il microfono adesso l'ho messo a 4 perché ieri l'ho regolato con Roberto, me l'avevamo portato a 7. E quello che ti dico, la foto te l'ho mandata, a meno che non abbiano cambiato i componenti all'interno. Boh. Adesso ti sento male, boh. Quando lo alzi non ti sento più bene. Ma non l'ho alzato già. Guarda a vedere. E allora stai parlando troppo vicino, stavi strappando. Perché stavo avvitando, capito? Allora è rauco. Ti sto dicendo, la radio non è chiara, a volte è rauca. Parlando diventa rauca. Ancora? Prova a parlare e tu ti dico se va bene. Aspetta che abbasso qua un attimino. C'è la bambina anche, sta giocando. Guarda a vedere. Com'è? Sempre a 4, eh. Ma sei attaccato? No, con ne ho io uno di quelle robe lì. Boh, è strano, eh. È strano perché a volte esce grauco e a volte esce bene bene, proprio liscio. Perfetto. A volte sembra che abbi la raucidine. Ma saturo sono. Cosa? Sono saturo. Troppo forte, sì. Boh, non riesco a capire cosa sia, se sia il microfono, se sia la potenza, boh. Poco fa mentre stavo uscendo bene, adesso te lo metto a 2. Guarda a vedere. Fa un passaggio lungo. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 9. A 2 te l'ho messo il microfono. Boh. Vabbè, abbassa ancora un po' di più. A 1, adesso a 1. Eccola qua, la radio buona. Così dici, perfetto. Cosa già c'era la bambina? Allo stesso tempo la radio è chiara. Aspetta, cosa stavi dicendo poco fa? C'era la bambina e non ti ho sentito. Di nuovo la radio. Io, sì. Io ti sento così, poi non lo so se la colonnina, cosa ne so, ma ti ho sempre sentito bene. Aspetta, piazza un attimo le SM20. Sono rientrato. Avanti, un profeta, avanti. Eia, stavo sbrigando roba per casa qua, no, sono entrato giusto per salutare, dai, che vi devo lasciare, che sono in procinto di prendermi la pizza, quindi scendo, me la ordino e così vado a caricare, dai, e oggi un po' a corrente alternata, dai. non so che ci sia rimasto in frequenza. Comunque un saluto collettivo e ci sentiamo alla prossima. Buona serata a tutti e buona carica, ok? Alla prossima. Gatta, ciao Gianni, dai, buona carica quando la fai, ci sentiamo alle prossime. Avanti, a chi spetta? Ciao già. Sì. Sì. Questo è il SM20. Questo va bene. Che pagata. Se non si carica nella batteria di Ghidu. Aspetta, facciamo una prova, attacca quello là che sta con la colonia. Sì, rimetto l'altro. Allora, eccoci qua di nuovo, macchinine sempre a uno già. Se ci sei, vedi un po' com'è. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3, prova. No, non è la colonia. Saturo di nuovo. Ebbene, Gianni mi sente saturo. Ma c'è un microfono a uno anche. Guarda così, bene, se sempre cuppa. La potenza la sto toccando le macchine del microfono. Qualcuno mi ha detto che è perfetta. Forse la vicinanza, forse sei troppo forte qua, ti fa questo effetto qua perché siamo vicini. Ciao Fra, buonasera, ben sentito. È un MV4 che devo restaurare, Fra, non lo so, anche abbassata uno, però ho detto forse la batteria. Allora, ieri l'ho regolata con Roberto Quadrato ed era in questa posizione il microfono e il mic gain. Aspetta, devo entrare nel menu qua. Ecco, il mic gain era così. Non lo so. Però Gianni mi sente male. Perché per sentirmi male Gianni mi rimetto l'SM20. Frava, a te com'è adesso? Perfetto, benissimo. Ciao Gianni, scusa che non posso. Ciao Fra, ben sentito, ma lo so qua è perché provo a abbassare il volume, vediamo un po'. La distanza è sempre la stessa, la timbrica della mia voce lo parlo normale, non urlo né niente, però già, al limite metto le 7:20 così mi sentite bene tutti. Ah, non c'è problema, sai come fa, come quando strappa il 4:40 140, quando strappano così fa tu. Allora siamo di nuovo con le 7:20, dai, così vediamo un po', così dovresti ascoltarmi meglio con questo. Adesso sei uscito bene. Gatta, le 7:20 questo. Avanti Franco. Sì, è la vicinanza che già ne ti sette volte, la vicinanza. E che a distanza riuscivo nella vita. Ma con questo esce bene, come mai? Con tutti e due esce bene. Infatti Gianni stava dicendo quello è modificato, allora l'ho aperto sul MB+4, me l'hanno portato ieri. Gli ho fatto la fotografia del circuito e sembra tutto normale, non sono state tolte neanche le resistenze, niente, cioè è normale. Probabilmente è così. Capitava a fare una operazione più grossa di qua con la modulazione più grossa e più compatta, sembra a volte mi sembra bicchieri con un tappa, però diciamo che la modulazione per me era buona, poi per loro che è più vicino a te non lo so. Avanti venite, infatti è così. Vabbè, ma il fatto se arriva forte come dovrebbe arrivare forte anche con l'altro e disturbare anche con l'altro, invece con questo qui io lo sento benissimo, con l'altro no. È una questione forse anche di colonnina, non lo so, a me mi sento bene, però non lo so che cosa sia. Adesso provo a mettere un filtro, quando parla se usa quello e vediamo un po'. Gianni, io sto usando la stessa radio che sto usando lui. Esce chiarissimo. Sto usando il microfono originale su cui la saponetta. Avanti, Luca. Sto usando il microfono di salvo, la fra. Adesso l'SMB? Sì, se vuoi ti rimetto l'MB. Cappa. Vieni, guarda, ti ho mandato la foto di quelle striscia LED. Addirittura. Cappa, strano. Oh, fra, me lo dai un controllo con questa radio? Sì, la radio buonissima, la solita radio tua. Pure segnale, cioè io sono a LED digitale, mi arrivi un 9.5, 9.10. Cappala. La radio è una statica che sto provando. Gli ho cambiato il filo, l'ho preso da Fusaro, e c'aveva un filo lungo 2 metri minimo, e minimo è 2 metri sul filo, e gli ho messo quello perché non ne aveva altro, a 5 fili non ne aveva, e allora gli ho messo questo lungo, mi posso coricare nel letto, girarmi e fare, e il filo ci arriva sempre. No, dove è venuto mi arrivi su questa radio? C'è la trasmessa, un altro metro, c'è la tracciata. La comunque penso di conto il segnale, perché questo qua è a legge, non riesco a dare il segnale, dai. Dai, sto provando questa radio nuova che c'ho, per vedere come va. Avanti Luca! Ok, tutti? Ehi, vai fra! Prova a vedere! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mi sta arrivando 9.5 modulato. Perfetto, la radio è perfetta, buona. E invece così come ti arrivo? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Adesso è aumentato un pochettino, sui 9.10, scusa. Cappa gappa. Così c'è anche picchi positivi, confermi? Sì. Andale. Allora, questo di nuovo l'MB, vedi un po' come prova 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5, 9, 5, 9, 1, 2, 3, prova, solita distanza. Solito, ma che è sempre a 7 del microfono, vedi un po'. Aspetta. E questo è l'SM20, guarda un po', 1, 2, 3, 1, 2, 3, prova microfono, prova 1, 2, 3, 1, 2, 3. Scava gava. Ma solo QRM si sente, non si sente nessuno. Cosa già? E si sente un bel di QRM oggi, ma voi ce l'avete. Meno di uno. QRM a prezzo, e di solito qua non è a QRM questa antenna, Ma ti ho mandato la foto del mio QRM già. Mi devo sentare, a dopo. Ciao Benito, ti aspettiamo le prossimine. Vabbè, non c'è rimasto nessuno.